Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana, il secondo del 2013, con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Salutiamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti. Allora, parliamo, come abbiamo annunciato, di delle novità non felici che ci porta il 2013, non felici soprattutto per aumenti nuovi, ma anche aumenti vecchi che erano già stati decisi e che fosse il caso di riepilogare. Da cosa partiamo? Beh, guarda Mirko, purtroppo è un bollettino da guerra e come ogni anno, in questi ultimi anni, dobbiamo sempre iniziare l'anno nuovo facendo un po' l'elenco di quelle che saranno le disgrazie che dovremo andare incontro, perché qua sicuramente per effetto di questi nostri buoni professori, di questi cari politici, qua ormai stanno tassando di tutto e sinceramente iniziamo l'anno già con le tasche vuote, però in ordine. Vogliamo dare subito una bella notizia che sarà la prima in ordine temporale, quella dell'aumento del canone della RAI, che quest'anno è passato a 113,50 euro, e non è certamente una cifra da poco in questo periodo di crisi con tutte le polemiche che ogni anno comincia, e dopo dovremo tener conto che a giugno comunque aumenterà l'IVA di un punto percentuale, perché questo caro governo, che adesso sembra quasi di sentirli come se fossero dei politici all'opposizione, ci devono ricordare che c'è un aumento dell'IVA al 22% e che questa cosa andrà in vigore tra pochi mesi. Di ieri è stata un parere della Commissione Europea che ha dichiarato come l'IMU è stata ritenuta una tassa che ha creato delle grandi differenze sociali e delle grandi povertà, perché una tassa, oltre ad essere ingiusta, è una tassa che non viene calcolata sui redditi, ma appunto ha mietuto vittime facendo senza distinguo di classe sociale e di fatturati. Per cui tutto questo assieme qua certamente non c'è da ben sperare per iniziare un anno allegramente. Ecco, e poi della benzina, insomma, lo diamo già per scontato, ma mi pare che già qualche piccolo aumento ci sia stato. La Tares, che è quella di cui tutti parlano in questi giorni, con i rifiuti, poi la Tobin Tax, poi sono aumentati anche i francobolli, abbiamo scoperto. Sì, quello che ho detto io era un po' il primo e l'ultimo aumento. Come hai detto tu, poi bisognerà tener conto di tutti gli altri aumenti, che allora li elenchiamo tutti. Come hai detto te, ci sarà la nuova Tares, che gli ascoltatori magari non sanno cos'è, ma sarà la nuova tassa dei rifiuti che andrà in vigore dall'aprile, e abbiamo già calcolato come Adico che per una famiglia inciderà di circa 80 euro in più all'anno. Poi sappiamo che c'è stato questo aumento dei francobolli, come hai detto tu, ma anche delle raccomandate, che sono passate da 3,90 a 4,40 euro, non è una cosa da poco. Poi sono aumentate le sanzioni delle multe, che le multe per infrazione ai codici della strada sono aumentate addirittura del 6%. Poi sono aumentati i costi di accesso alla giustizia, che per esempio a noi interessa molto, perché molte volte il consumatore viene qua per poter farsi valere di fronte a quelle che sono delle ragioni sacrosante e legittime. Pensiamo che fino a qualche anno fa andare davanti al giudice di pace era praticamente gratuito, oggi c'era un contributo unificato minimo di 37 euro più 8, oggi questo accesso verrà aumentato del 50%, quando sappiamo che poi ci saranno dei contributi che variano a seconda del valore della causa, e quindi sostanzialmente aumentati del 50% certamente andrà a dissuadere anche il semplice consumatore a far valere i propri diritti. Sono aumentati i pedaggi delle strade dal 1 gennaio per una media di circa 13,5% in alcuni tratti, anche tra cui sono interessati in particolar modo anche i soliti noti tratti autostradali che noi conosciamo bene, tra cui anche il passante, che addirittura è stato portato da 70 centesimi a 2,20 euro, arretrando un pochino il casello, quindi trovando in modo sempre di spilare soldi ai consumatori. Sono aumentate quelle che sono un po' tutte le tariffe dei consumi energetici domestici, ad eccezione appena appena un po' quella dell'energia elettrica, ma che è stata ampiamente assorbita da quello che è stato l'aumento del gas, perché mi pare giusto aumentare le bollette energetiche del gas sempre nel periodo invernale di maggior consumo. E dopo c'è tutta una serie di adeguamenti che dovremo prepararci a subire sempre quest'anno, di cui le pubbliche amministrazioni, in particolar modo quelle locali, sicuramente troveranno in modo di infliggere, sia da un lato ai carri automobilistici con queste sanzioni indirette che sono derivate sempre da queste multe, ma anche da quelli che sono per effetto di variazioni e adeguamenti all'IRPEF comunale e magari a quelli che possono essere altri adeguamenti che normalmente nei servizi sociali i comuni cercano sempre di tagliare, trovando in modo sempre di far pagare di più il consumatore. Con un occhio riguardo alla sanità, che sappiamo che i nostri cari professori hanno deciso di renderla sempre meno accessibile ai cittadini normali, trovare sempre ormai ogni pretesto per far pagare sempre di più. In ultimo vediamo che anche le ambulanze oggi rischiamo di pagarcele se non sono veramente seriamente motivate nel loro intervento. Posso aggiungere ulteriore carne al fuoco, come hanno ricordato alcuni commenti anche sul vostro sito associazionedifesaconsumatori.it, i costi dei conti correnti e dei depositi bancari. Giusto, mi ero dimenticato, sappiamo che dal 1 gennaio questo governo ha deciso di applicare, alla fine del 2012 questo governo ha deciso di applicare una mini patrimoniale sui risparmi, che partirà da un importo minimo di 34 euro come tassa e andrà ad adeguarsi fino a un massimo di 1200 euro per un valore di un 1 per 1000 sulla somma depositata, che poi diventerà un 1,5 per 1000 dal 2013. Una mini patrimoniale che coinvolgerà tutti, perché partirà da un importo minimo, quindi da un bollo a prescindere di quello che è il valore dei nostri risparmi in conto corrente, e andrà ad adeguarsi via via su quelle che saranno poi le nostre disponibilità che abbiamo avuto durante l'anno, fermo restando che appunto hanno pensato il 28-29 dicembre applicare questa tassa qua e fare una fotografia di tutto quello che è stato nell'anno precedente, quelli che sono stati i risparmi che siamo riusciti a accantonare per poter applicare anche questa imposta. Torna in auge il vecchio materasso, insomma, dei nonni. Lì sicuramente nessuno li tassa i soldi sotto il materasso. A proposito di IMU, al momento appunto la tassa è ancora in vigore, poi in base al governo che vincerà le elezioni vedremo se non ci sarà più, se sarà diversa, se sarà rimodulata, perché poi i comuni che citavi prima credo contino molto anche per garantire i servizi, ovviamente, perché molto del gettito, almeno quello della seconda rata di dicembre, è andato proprio ai comuni, e grazie anche a questa tassa i comuni riescono a garantire, insomma, in qualche modo barcamenandosi qualche servizio. Sì, certamente, come hai detto tu, è così, però dobbiamo anche ricordarci che i comuni applicano anche tante ad alternative per poter fare cassa. Noi pensiamo per esempio al comune di Venezia, che ha un casinò che gli fattura circa 100 milioni di euro solamente di quello. Poi io dico, normalmente una politica fatta di tasse e di tagli non è mai una politica che comunque ti possa permettere di fare cassa, perché io ritengo sempre che una politica che possa dare efficacia e risultato deve essere una politica fatta di stimolo e di sgravi su quelli che possono essere degli investimenti. Oggi i comuni sappiamo che applicano tante scamotage, che sono le telecamere sui semafori, sono i famosi oneri di urbanizzazione che normalmente in maniera sempre più selvaggia applicano per cercare di introitare quelle che sono delle risorse che possono arrivare nelle casse comunali come rubinetto aperto, perché gli oneri di urbanizzazione sono proventi che il comune può spendere man mano che arrivano senza mettere in bilancio o in previsione di spesa, però sappiamo che comunque chi ci rimette alla fine sono sempre i cittadini, che oggi veramente con grande fatica possono pensare di ricevere dei servizi in base a quelle che sono le tasse che pagano, perché oggi i servizi fondamentalmente ormai si pagano tutti. E con questa amara considerazione allora noi ci salutiamo. Di questi singoli provvedimenti poi torneremo a parlare magari dettagliatamente nel corso dell'anno. Intanto ci diamo appuntamento alla settimana prossima con altri due argomenti. Grazie Carlo, buon proseguimento. Sì, grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.